e tu buttati dalla finestra assieme a quella bagassone tua madre, capito? Che sei qui dalla questura, capito? Hai capito? Faccio scudere la tazza di notte? Eh? Capito che stanotte ti piombo di telefonate? Eh? Brutto coglione! Ti piombo di telefonate a casa tua, coglione! Comunque... Thank you. piombo di telefonata, te a quella bagazzina di mamma tua, capito? Quella tua madre la fai, quella cogliona, figlia di bagazza, capito? Domani staccati il telefono! Faccio crepare tua madre, capito? La faccio crepare! Capito? Domani crepi tu e tua madre! Tua madre la fa, capito? Hai capito? Brutto frosso drogato! Drogato! E te fa perché domande alle 6 di piombo di telefonate, hai capito? Tu hai quella grande bagasse mamma tua! Quella grande bagasse mamma tua! Tu non hai capito, vero? Non hai capito? Domani piombo di telefonate, capito? Poi puoi venire con Pippo, puoi venire con quella bagassa mamma tua, capito? Ma domani ti piombo di telefonate, capito? Brutto coglione! Coglione! Mi diverto con tua madre, capito? Grosso! Domani mi diverto con tua madre. Staccati il telefono, ti conviene staccarlo il telefono. Hai capito? Brutto coglione! E tua madre può anche crepare, capito? La faccio crepare! Con questo bastardo, con questo frosso. Domani alle 6 mi alzo, e vedrà come gli piombo di telefonate. Chi è? Che domani ti piombo di telefonate, svegli a tua madre, a tuo padre, capito? Coglione, drogato, drogato, che dove ti trovo ti scanno, hai capito? Coglione, a te quell'altra famiglia pistita, hai capito? Che ti faccio crepare, brutto coglione! Così non dormi né tu né tua madre, va bene? No, incomincio la letto così non dormi, hai capito? Ti faccio crepare, brutto coglione! Hai capito? No, devi crepare tu, hai quella grande bagasse mamma tua! Quella grande bagasse mamma tua! Coglione, cosa vuoi? 100.000 lire, vero? Quello vuoi? Caccia nel culo, filo! Oh, che bello che sei! Sei un po' che basta, eh? 2116, questo è il numero tuo. Brutto coglione! Brutto coglione! Adesso mi diventa il telefono. Coglione! Da coglione, figlio di Scaglia. Dell'acqua fredda, eh? Così ti prodano meno i nervetti. Beh. Pito?